Prima che fosse tempo, una luce alveare disegna nel cammino la materia da afferrare. Destino, l'espansione cellulare, cinque miliardi di anni di creatura madre e figlia, orizzonte culla di tempeste equalizzate, mille anni.